Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, sono le 14:59:55. Abbiamo qualche secondo di anticipo, siamo più che puntuali al sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Lo sapete, il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E poi nella terza ora, dalle 17:18 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come tenerci compagnia? Beh, c'è il numero per i vostri SMS e WhatsApp: 349-238-6666, 349-238-6666. Poi c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola. C'è anche il mio account di Instagram, se proprio voleste anche seguirci via Instagram, sempre @MartaCagnola. L'hashtag è cancelletto ISDV, come il sabato del villaggio. Ah, ho detto tutto e di fila. Allora, scopriamo però anche i temi di questa puntata. Allora, in questa puntata continuiamo a preparare i regali e le feste di Natale, ma scopriamo anche le tendenze del momento, come sempre. Allora, nell'appuntamento con il gastronauta parliamo di pandoro e di dolci tipici regionali di Natale. Vi consiglio di recuperare i nostri podcast con le puntate che abbiamo dedicato al panettone, al torrone, insomma tutte le specialità, anche perché abbiamo dato un sacco di indirizzi utili. Poi le tecnologie con Enrico Pagliarini e tutti i film in sala nel weekend, ma non solo, perché partiamo proprio parlando di cinema. C'è tanto, tanto cinema. Voi mi dovete 1 milione di sterline. A Robocop, credi che mi fai paura perché c'hai la mano de ferro? Avete una settimana di tempo. Ah, ma una settimana? Io pensavo molto meno. Oh, perché non mi hai detto di tutti questi debiti? Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rapiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto. Riformiamo la vecchia banda. Io ci sto. Ci mancherebbe. Anch'io. Stiamo tutti con te. O la va o la spagna. Sono disappeared. I cani disappeared. Sono spariti i dogs. Paura. Allora, questo è il trailer di Natale a Londra. Abbiamo festeggiato Natale dappertutto, con tutti i cinepanettoni in questi anni. Ma, come scriveva qualche giorno fa, il Corriere della Sera, sentite il rumore della carta perché l'abbiamo proprio ritagliato. Se una volta c'era il cinepanettone di Natale, quest'anno siamo passati al cinecenone natalizio. Antipasto, primo, secondo, dolce, frutta, caffè, ammazza caffè. Mi sembra ottimo questo attacco di questo pezzo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, che si intitolava La guerra dei cinepanettoni. C'è tanto, tantissimo in questi giorni al cinema. Abbiamo cominciato alla fine di novembre, andremo avanti almeno fino al 1° di gennaio. Io lo so che tante famiglie scelgono un film solo, massimo due film da andare a vedere. Non è facile, cerchiamo di orientarci tra tutto quello che è già uscito e quello che uscirà con un amico del sabato del villaggio, molto molto contenta di averlo già collegato con noi, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora Gabriele, diamo un po' una bussola con tutto quello che sta uscendo. Intanto ti faccio subito la domanda da 10 milioni di dollari e come sempre se mi sai rispondere però io non te li do perché non ce li ho. Allora, esiste ancora il cinepanettone, Gabriele? Sì, esiste ancora e c'è ancora un uomo in questo paese che lo fa. È il cinecuoco del cinepanettone. Esatto, lo fa una volta e quell'uomo è Massimo Boldi. Ah, quindi il cinepanettone secondo te è già uscito in pratica? Sì, è l'unica vera chiesa per gli adepti che per decenni sono andati a vedere i film di Christian De Sica e Massimo Boldi. Non è il nuovo film che quest'anno vede al cinema a Natale Christian De Sica, ovvero Poveri ma ricchi, ma è quello con Boldi, Natale al Sud, è quello con le camere di hotel, gli scambi di persona, le donne col seno troppo grande, i palestrati oppure quelli troppo grassi, e ovviamente con Massimo Boldi che urla di dolore. È uscito a fine novembre, quindi lui anticipa un po' l'uscita proprio di Natale. Ma per non una cosa, sì. Lui sono anni che esce a novembre, ecco, ma ecco. Poi di anno in anno lui si avvicina sempre di più a dicembre, cioè il suo sogno è di ambire, capito, di ambire alla competizione di Natale, ma sa che deve arrivarci per gradi. Ah, quindi praticamente secondo te, anche perché diciamolo, ormai la produzione di Massimo Boldi è sua, cioè non è più un film prodotto dai grandi colossi, ma è lui che poi lo realizza il film di Natale, perché... Non solo, è proprio una questione personale, cioè sì. Massimo Boldi non lo nasconde, lo dice nelle interviste, lui dalla grande separazione è stato lui ad andarsene per una serie di questioni che adesso non ritireremo fuori ma che sono molto personali, quindi insomma c'ha un po' il dente avvelenato specie con De Laurentiis e lui ambisce veramente a rompergli le uova nel paniere con la sua roba, col suo materiale, con insomma, il suo classico. Ecco, mi piace questa cosa. Sai cosa c'è? Io spesso parlo con tante persone che non seguono questo tipo di cinema, ma è comunque utile orientarsi. In tanti dicono: ah, i cinepanettoni dei Vanzina. No. Ah, un grande classico, no. Sì, è vero, è vero. No, non c'entrano niente. Cioè, loro hanno iniziato con Vacanze di Natale, ma poi i cinepanettoni sono stati tradizionalmente altri. Loro non c'entrano nulla. Diciamo che loro fino a fine anni 90, dai, fino a fine anni 90 era materia loro, in linea di massima. Poi forse, se non sbaglio, ne hanno fatto uno 4-5 anni fa che si chiama Vacanza a Cortina. Mm-hmm. Però insomma, veramente sporadici. Quello che tendiamo a identificare come il vero cinepanettone, cioè la coppia Boldi De Sica, Vacanze di Natale sul Nilo Natale in India, era di Neri Parenti, che è un nome molto meno noto di Vanzina, per questo poi non si impone. Certo, certo. Quest'anno invece, appunto, abbiamo detto Massimo Boldi uscito. Adesso tocca a questo. La cena di Natale era già uscito anche quello. Era una commedia, ma aveva comunque Natale nel sì, titolo. Ci provava, diciamo così. Ecco, ci hanno provato ad attaccarsi un po' al Natale, uscendo credo il 24 di novembre. Adesso esatto. Di natalizio, cosa esce? Allora, la cosa bella è che non esce niente di natalizio, niente. Tutte le commedie di Natale che sono uscite tutto questo weekend, sono le tre ufficiali commedie italiane di Natale, sì? Non sono natalizie. Cioè, addirittura una, quella di De Laurentiis, che dovrebbe essere quella ufficiale in teoria, si chiama Natale a Londra, ma è alla Abbiamo fine, sentito il trailer, sì. Sì, esatto. E alla fine c'è una persona che dice: che bello essere tutti insieme a Natale. Quello è l'unico momento in cui viene menzionato Natale. Fantastico, neanche l'alberello, c'è nulla, proprio non ha niente a che fare col Natale. Ok. Niente. Mm-hmm. Però gli serve il Natale nel titolo, chiaramente, okay. È una questione di marketing. Ok. Poi, allora, dicevo, quello sì. È quello ufficiale. Sì. No, quello che ha preso il testimone di Boldi De Sica. Da tanti anni lo fanno Lillo e Greg. Quest'anno, come abbiamo sentito dal trailer, hanno per una serie di rocamboleschi intrecci, rubano i cani della regina e tutto si svolge a Londra, ma è girato a Roma, tutto inizia. No, non ci posso credere. Ma sul Tevere si vedono i San Pietrini. No, Roma. Dai, fantastico. Vabbè, questo senti. Però quello ti fa capire che è il vero cinepanettone. Questi sono i tratti distintivi da cui uno capisce che siamo a casa. Effetto Brexit anche sul cinepanettone. Allora, abbiamo detto Boldi, abbiamo detto il cinepanettone con Lillo e Greg e De Sica. Oh, De Sica quest'anno ha fatto una grande scelta. Perché te lo dico, io che li ho visti tutti, che molti dicono di averli visti ma non li vedono, è vero, che li ho visti tutti. Non ho dubbi Gabriele. È molto bello, è divertente innanzitutto, un film famoso, si chiama Poveri ma Ricchi, è un film francese rifatto da noi, da Fausto Brizzi, però è molto adattato, molto bene, cioè non sembra per nulla francese, ma è una cosa proprio nostra. E c'è una straordinaria Lucia Ocone che regge tutto il film, poi chiaramente ci sta anche De Sica che fa il suo, c'è Brignano, ma insomma, qui che funziona tanto. Io era parecchio che non ridevo così tanto per un film italiano al cinema. No, finalmente, quindi già questo è un consiglio, Poveri ma Ricchi. Poi usciti Bisio e Gassman con Non c'è più religione, anche lì un po' di Natale c'è. Perlomeno, sì, c'è il presepe. La storia è quella del presepe, è vero, hai ragione, è vero, è vero. Anche se secondo me, a giudicare, no, dai protagonisti, dall'ambientazione, che è un'isola delle Tremiti, quindi molto provincia del sud, è un po' effetto Benvenuti al Sud. Anche il regista Luca Miniero è lo stesso, sì. Si punta un po' lì, però secondo me è molto scialbo, è proprio sciapo, non funziona bene. Io l'ho trovato un po' innocuo, insomma non esci dicendo oddio che brutto, non esci neanche yuhu, esci vabbè così, sì. Neanche ricordandoti le battute che ti avevano fatto ridere, quello è un po' il problema. Ok, sono un po' d'accordo con te, grazie, ma non troppe risate. Poi questo fine settimana poi ne parleremo anche con Franco D'Assisi, ovviamente gli chiederemo qualcosa perché è l'uscita della quale lui parlerà molto nella Rosa Purpurea, Fuga da Reuma Park, Aldo, Giovanni e Giacomo, niente Natale nemmeno lì. Zero proprio. Okay. Questo, te lo dico, mi mette in difficoltà. Perché Aldo, Giovanni e Giacomo saranno forse quelli che combatteranno più seriamente per vincere la battaglia degli incassi. Potrebbero essere il film che vince, anche se secondo me alla fine vince De Sica. Però comunque loro daranno battaglia. Ma questo film è veramente un non film. Cioè è una cosa che non somiglia a quello che noi sul pianeta Terra identifichiamo come film. E io ti confesso non l'ho ancora visto, perché nei giorni dell'anteprima, così noi raccontiamo anche retroscena agli ascoltatori, io ero a Sanremo, poi parleremo anche del Festival di Sanremo, quindi mi sono persa le anteprime di Christian De Sica, e questo le recupererò al cinema. Quindi è un ni anche questo? Ma guarda, hai presente quelle vecchie serie TV che ogni tanto facevano gli episodi che assemblavano spezzoni dai vecchi episodi? Che, fatti con parti. Loro fanno se stessi vecchi che si ricordano i loro vecchi personaggi, quindi si vedono pezzi proprio di spettacoli teatrali loro. Continuamente nel film arrivano i personaggi che facevano a Mai Dire Gol, ma arrivano e se ne vanno, è proprio una comparsata. E una carrellata nella loro carriera, solo che insomma per essere un film che vai a vedere al cinema è un po' pesante. Ok, poi chiederemo anche a Franco D'Assisi che poi appunto ne parlerà lungo la Rosa Purpurea. Ma io voglio arrivare al fatto che nel 2017, quindi parliamo dell'inizio di gennaio, questo non è l'anno di Zalone, perché che con Zalone fa un anno sì, un anno no. E esatto. Quindi questo è l'anno di Alessandro Siani. Noi vediamo già le città tappezzate di manifesti enormi di questo Mister Felicità, che io personalmente non ho ancora visto, non so se tu già hai avuto la possibilità di assaggiare qualcosa, perché appunto uscirà il primo di gennaio, quindi di solito le anteprime si fanno nei giorni tra Natale e Capodanno, per quei pochi che sono ancora a casa e quindi riescono a vederlo. Molte aspettative su Alessandro Siani, però, perché appunto l'uscita ci suggerisce campione di incassi nell'anno in cui non c'è Checco Zalone, cioè sembra che lo spirito sia quello. Eh sì, perché da quando Checco Zalone ha iniziato, quindi 6-7 anni fa se non sbaglio, il primo gennaio è diventata la nuova data dei film campioni di incassi, di quelli insomma dei calibri pesantissimi. Siani lo è stato negli altri anni, sia con l'ultimo Se accettano miracoli che con quello prima. Io però ho poche aspettative, te lo dico, perché a me l'ultimo mi ha deluso veramente tanto, cioè mancava di tutto, mancava di verve, di forza, di divertimenti, di energia proprio, che per un film, una commedia, come con uno come Siani, insomma dovrebbe essere la caratteristica numero uno, invece, quindi mi aspetto molto poco. Poi ne parleremo, perché appunto io non ho ancora visto nulla, non posso ancora dire niente, ma alla fine tutti questi film, questa concentrazione di film con Natale nel titolo, con a volte niente Natale nella sostanza, non che ce ne debba essere, ma se mi metti Natale nel titolo io un po' di Natale me lo aspetto dentro, fanno bene o fanno male secondo te al cinema tutte queste uscite? Allora, fanno bene al cinema perché comunque realizzano un buon incasso, la gente ci va, e questa è sempre la cosa numero uno. Se la gente va dal cinema, se lo vede, le sale incassino e tutti felici. Secondo me fanno male a loro stessi, nel senso che una volta, se ti ricordi, quasi nessuno osava e si arrischiava a mettersi contro il cinepanettone, che faceva anche 20 milioni di euro, 20 o 30 milioni di euro di incasso, e nessuno si metteva contro. Da quando il re è debole, no? Da quando non è più la forza che era prima, tutti hanno cominciato a insediarne il dominio e adesso si spartiscono quella fetta, per cui se gli va bene fanno 7-8 milioni, se no ne fanno 2-3, insomma, che è sensibilmente meno di 20-30. Vero, verissimo, insomma, fette più piccole, perché la torta quella quindi è... A noi importa poco, perché noi non li abbiamo prodotti, quindi chi se ne frega. Ah no, certo, i soldi non sono nostri. Anzi, è meglio che c'è più varietà, è loro esatto, che sono disperati. È vero, i soldi non sono nostri. Ti chiedo... Perché mica sono messi io. Hai ragione, senti, non posso non chiederti un flash, visto che poi appunto torneremo a parlarne. Rogue One, ti è piaciuto?

Il sabato del villaggio. Riprendo questo sabato del villaggio con il capo, anzi con la cuffia cosparsa di cenere, perché abbiamo detto, cioè non abbiamo detto una cosa. Che figuraccia, ci siamo dimenticati il Molise. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: c'è anche il Molise con i suoi pepatelli, il Molise non lo nominate mai, vergogna. Io mi sto vergognando tantissimo, però a questo punto io comincio a pensare di andare a fare un giro al Molise, in Molise, anche solo per provare i pepatelli, perché dal nome già mi sfiziano abbastanza. Quindi viva il Molise, e adesso parliamo di tecnologie. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Piace di i Ramones con il loro Merry Christmas, Enrico? Li ho sentiti nominare i Ramones. Erano un grandissimo gruppo. Li avrò anche sentiti in passato, però erano grandissimi. Bella questa. Rocchettari. Merry Christmas. Buon Natale, Christmas. Non voglio litigare più. Così. Allora, Enrico, ho appena twittato una foto perché io non ho idea di quello di cui tu vuoi parlarmi. Intanto sei arrivato in studio e hai spento tutte le luci. Sì, perché allora il primo gadget che volevo consigliare, però francamente non saprei dove farlo acquistare, ma costa veramente pochissimo, è questa penna, è una penna per scrivere. Che tu ora mostri alla radio, Mostro alla radio, che quando si estrae quando si fa click, così. Il click si sente almeno. Abbassa la musica. Abbassiamo. Così. Quando estrae la punta della penna, Si illumina. È molto natalizia. Sì, ne avevo una che usavo al cinema per prendere appunti. E poi giustamente simpatica. Andrea in regia ha detto la gente si arrabbiava. Quando sei lì per lavoro, una lucetta per scrivere. Dunque, alla radio, non vedendosi quello che noi facciamo qui, potremmo barare. Però visto che noi siamo precisi, puntuali, io ho fatto le cose per bene e avrei potuto scimmiottare delle buste. Oggi vorrei parlare di tre argomenti a scelta. Sì, e qui ho tre preparato buste, tre quindi buste, la uno, appena twittato la foto delle tre buste. La 1, la 2, la 3. Posso anche dire, scegliete quelle buste lì hanno il logo vecchio di Radio 24. C'è un motivo per cui, Dovete sapere, cari ascoltatori, che noi abbiamo rinnovato recentemente il logo di Radio 24 e abbiamo un po' di buste con il logo vecchio. Esatto. Non tantissime, non che abbiamo sprecato, insomma, siete stati bravi. Però queste hai buste usato le buste con il logo possiamo vecchio. Spedire. Devo scegliere o devo pescare? Scegli. La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2, perfetto. Allora, apriamo la 2 e vediamo qual è l'argomento. Allora, gli argomenti li ho scritti io, non è che, però non so dove sono. Non è che sei sorpreso, ok. Dunque, allora, questi sono alcuni consigli per i regali di Natale. Molto semplici, molto economici, però con un ragionamento che sta dietro. Allora, possiamo scegliere di acquistare molto spesso in un negozio fisico una, una cartolina, chiamiamola così, una card, una tesserina regalo che contiene fondamentalmente soldi, un credito per far sì che ne so, se io la regalo a te, tu puoi spendere questi soldi comprando film, musica, applicazioni per lo smartphone. Queste sono normalmente le cose che si regalano. Però un consiglio. Allora, io tendenzialmente, perché si possono regalare o per un abbonamento, che ne so, servizi musicali su abbonamento, ti regalo 30 euro per 3 mesi, magari hai l'abbonamento alla musica. Sì. Che bravo Pagliarini. Oppure, che non dice neanche un nome commerciale. No, io avrei già detto tutti i nomi. Sì. No, perché ce ne sono talmente tanti. Certo. Ecco, invece ci sono dei servizi alla carte che io posso, per i quali io posso, che ne so, comprare una canzone e quella canzone diventa mia, nessun abbonamento, oppure film che funzionano come i negozi che ancora esistono per noleggiare i film. Io noleggio un film, lo riporto indietro e così faccio su internet. Nessun abbonamento. Allora, io consiglio per Natale di fare un regalo di questo genere. Più che regalare soldi per attivare abbonamenti, che ti legano un po' e quindi poi metti su quella strada la persona a cui fai il regalo. Ah beh, certo, magari se sai che è già abbonata. Potresti anche, sì. Perché sennò cioè, la costringi, tra virgolette. Sì, okay. Però, ecco, invece io sceglierei un monte, decidete di spendere 10 euro, 20 euro, insomma quelli che desiderate e fate il regalo perché uno si possa comprare. Cioè se uno ha un iPhone gli fai una schedina per l'Apple Store, se uno ha un Android per Google Play, perfetto. Ok, perfetto, quindi perfetto. Regali già dei soldini caricati sulla, esatto. Però è come regalare la scatola di cioccolatini, cioè una volta che l'hai finita, basta, finita, poi decidi tu se andare avanti. Certo, lo puoi fare anche con gli abbonamenti, perché ormai sappiamo che su internet gli abbonamenti si disdicono molto facilmente, molto velocemente, però uno poi deve fare anche un po' una scelta. E questa era la busta numero 2. Questa è la busta numero 2, allora ci rimane la 3 e la 1. La 1 e la 3. La 3, come diceva Mike. La 3, la busta numero 3. Vediamo cosa c'è dentro la 3. Allora, ecco, questo è un argomento un po' noioso che concludo in 30 secondi, in un minuto, cioè la sbrighiamo. Sì. Però è molto importante, è molto importante. Quando noi parliamo di tecnologia, anche se parliamo di pezzi di ferro, di plastica, di hardware, automaticamente siamo legati però a un account, quindi a qualcosa di software, a un servizio su internet, e automaticamente dobbiamo creare una password quando ti registri, diciamo così. Sì. Questo è uno dei grandissimi problemi di questa nuova era tecnologica, perché abbiamo un sacco di password, di nomi utente per la posta elettronica, per far funzionare il televisore, ormai mi verrebbe da dire. Allora, alcuni di voi sapranno che questa settimana Yahoo ha fatto un annuncio clamoroso e veramente senza precedenti, e ha annunciato di avere subito un attacco hacker un paio di anni fa, cioè l'hanno svelato oggi, diciamo, ce ne sono accorti recentemente, di aver subito un attacco che ha compromesso i dati di 1 miliardo di utenti. E uno a questo punto potrebbe dire, ma chi se ne frega, magari io non ho, io ce l'ho la mail di Yahoo e ho già cambiato la password. Però uno potrebbe dire, vabbè, a me non mi interessa. Però, per cambiarla devo ricordarmela, però lo faccio, certo, in questi giorni. Certo, però devo dire che potrebbe capitare a un altro, non l'auguriamo a nessuno, certo, però potrebbe capitare certo. Domani ad un altro servizio. Quindi questo è un problema di cui dobbiamo farci noi personalmente carico. Certo, le aziende che offrono i servizi devono preoccuparsi di garantire la sicurezza, ma noi dobbiamo essere bravi. Che cosa vuol dire? Scegliere ad esempio una password, una buona password. Ho fatto 3 esempi, così uno capisce. Secondo voi, la password migliore tra queste 3? Okay. Se io mi chiamassi Carlo, Pipponi di cognome, Carlo Pipponi, e dico, Carlo, sono nato il 24 ottobre, password numero 1, Carlo 2410. Non è proprio da furbi, no? Pippo 1, non è proprio da furbi, no? Ecco, invece c'è questa che è 5, K minuscola, PP maiuscolo, punto interrogativo, B minuscola, 87. Sì. Dopodiché tu dirai, sì, ma come si fa se me la ricordo? Devi essere brava però. Ho capito, però vabbè. Okay. Busta numero 1. Numero 1. Vabbè, qua lo so che cosa c'è dentro perché ho scritto io. Ma però, anche le altre 2 lo so. Sì. No, non mi ricordavo dove le avevo messe, nella luna, perché allora, i numeri li ho messi dopo. Sì, il terzo. Dunque, questa settimana Apple ha annunciato, qui facciamo il nome dell'azienda, perché Apple ha annunciato l'arrivo delle nuove cuffie senza fili Bluetooth. Alla buona ora però, sì, sì, è vero, hanno avuto un po' di ritardi, gli abbiamo adeguatamente tirato le orecchie dicendo, avevate detto che uscivano a fine ottobre, invece qua siamo a dicembre. Hanno ritardato un po', sono arrivate queste cuffie che si chiamano AirPods. Quelle che ho paura di perdere, cioè se le comprassi qui, temerei di perderle. L'asino. Esatto, qui. No, cioè, nel senso che questo è effettivamente uno dei problemi. Però, se mai vi venisse in mente di regalare una cuffietta qualsiasi essa sia, che sia per un iPhone, per un Android o per anche un qualsiasi altro strumento, se vi è possibile scegliete la cuffia senza fili, perché questo molto probabilmente sarà il futuro. Stanno togliendo, lo vedremo nel prossimo anno se sarà una scelta fatta anche dai grandissimi produttori di smartphone concorrenti di Apple, però è molto probabile che anche gli altri toglieranno l'ingresso jack audio. Sono molto comode le cuffie senza fili, devo dire che non tocca, si abbrovigliano i fili. Tocca caricarle. Infatti, su questo, che sono un po' un esempio di quello che potrebbero fare anche gli altri gli altri produttori, allora sono contenuti in una piccola scatolina, una scatolina che potrebbe essere quella delle caramelle o dei chewing gum. Tu le estrai, hanno al loro interno una batteria e la durata della batteria è di circa 4-5 ore, dichiarata 5 ore, ma diciamo forse un po' meno. Però la custodia le ricarica? Sì, fa da batteria. Quindi se tu non hai più carica, le metti dentro a questa custodia e si ricaricano. Però poi, ho ancora ovviamente qualche dubbio, proprio perché secondo me sono piccini e non lo so, le cuffie senza fili facilmente. Sì, e gli auricolari senza fili devo... Probabilmente le aziende, cioè Apple in questo caso, avranno detto: fantastico se si perdono, così ne vendiamo un altro paio. Quello è vero, sarò un po' retrograda. Sai cosa succederà? Succederà che vedrai gente in giro con le cuffie senza fili, sì, alle quali tu metterai un filo per non perderle. Ma un filo non per, da cui passa la musica. No, un filo proprio, tipo quello degli occhiali. Sì, tipo il portachiavi, no? Esatto. Allora, no, dico, sarà un po' retrograda o vecchietta, come scrive un ascoltatore che dice: beh, la voce da vecchietta che ha la signora che parla in modo eccitatissimo al fianco di Enrico Pagliarini. Allora, io sarò vecchietta, però tu usi le K, e se c'è una roba che mi manda in bestia sono i messaggi con le K. Invece se c'è una roba che manda in bestia Pagliarini sono gli antinebbia. Ah, no, beh, non perché me ne parlate. Perché è entrato in studio dicendo: ma possiamo riparlare degli antinebbia posteriori? Questo è un appello anche sociale, non sto scherzando, sono molto serio. L'antinebbia acceso, se tu hai un veicolo che ti segue molto vicino e lo vedi il veicolo, lui vedrà te. Quindi è inutile che tieni acceso l'antinebbia. Spegnete questi antinebbia. Gli antinebbia servono in casi estremi, estremi. Direi che L'80% delle persone che hanno acceso gli antinebbia li tengono accesi in modo inutile e danno un fastidio pazzesco. Senti, a proposito, lanciamo il traffico. Mi fermo qui. Lanciamo il traffico, che traffico. Ci sta bene. Traffico, traffico, traffico. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Il sabato del villaggio. Abbiamo fatto un dibattito, Enrico Pagliarini, sono fendinebbia o antinebbia? Quindi fendinebbia quelli anteriori e antinebbia quelli posteriori, secondo allora, te? Allora, il fendinebbia è quello che sta davanti, okay, che fende la nebbia mentre si procede. Il retronebbia è il fanalino posteriore. Ok. Senti, antinebbia è un sistema tecnologicamente avanzato che non è ancora stato inventato, che fa scomparire la nebbia. Che bello quello, quello mi piace. Accendo, senti, l'antinebbia, si abbiamo parlato della password di Carlo Pipponi. E c'è uno che si chiama Carlo Pipponi. No, FX, c'è un account di Twitter strano, non so come leggerlo. Ha suggerito una passphrase tipo: Pippone di sera, Carletto si spera. Non è male idea. La passphrase. Tu volevi fare lo spiritoso, ma Pagliarini è una buona idea. Sì, Pagliarini sì. Apprezza. Sì, sì. Allora, cioè, una filastrocca. Sì, esatto, sì, sì, esatto. È un po' lunga, però vabbè, è buona, va buona. Bene, va bene. Anche se volevi fare lo spiritoso, noi andava bene no, lo bravo, stesso. Bravo, bravo, bravo. Ma se sono tolgono d'accordo il jack audio, come funzionerà la radio, visto che il filo funziona come antenna? Allora, scrive Anna. Dico, purtroppo, facendo noi la radio FM dagli smartphone sta scomparendo. C'è uno smartphone di LG che ha la radio DAB digitale, ma la radio sugli smartphone, essendo prodotti nati per internet e per l'online, va via app. C'è anche l'app di Radio 24 nuova, che vi invitiamo a scaricare, con gli ultimi aggiornamenti l'abbiamo certo anche sistemata, e quindi si usa. Quindi comunque la radio viaggia in altro modo, e quindi sì, sì, sì, sì. Domanda anche questa: e le radiazioni? Ma allora, se usiamo uno smartphone o un cellulare, allora se ci preoccupiamo delle radiazioni non dovremmo nemmeno utilizzare lo smartphone, che ha una potenza di emissione molto più elevata delle cuffie Bluetooth, perché deve raggiungere un'antenna che sta, se ci va bene, a centinaia di metri di distanza, se non a chilometri di distanza. Quindi è un falso problema. Perfetto, certo, aggiungiamo frequenze su frequenze, cioè radiazioni su radiazioni, ma stiamo parlando di emissioni veramente molto blande, insomma, trascurabili. A proposito di radio, podcast di 2024. A proposito di cose online. Esatto, esatto. E niente, noi ciao, ci ritroviamo il prossimo sabato, allora. Le tengo le buste, le ricicliamo. Sì, sì, sì, le facciamo ancora le bustone. Adesso è il momento di parlare di cinema. Vuoi uscire da qui? La ribellione è tutto ciò che ci resta per respingere l'impero. Ci richiedono un nome in codice. Rogue. Rogue One. La potenza con cui abbiamo a che fare è è incommensurabile. Se l'impero ha questo tipo di potenza, che possibilità abbiamo? Abbiamo la speranza. Le ribellioni si fondano sulla speranza. Il trailer di un film attesissimo, Rogue One, è uno dei film in sala da questo fine settimana, ma varrà la pena andarlo a vedere? Lo chiediamo come sempre al nostro super esperto Franco D'Assisi. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, temo che il nostro consiglio in questo caso non debba andare nella direzione se valga o no la pena, tanto vanno a vederlo lo stesso, ci stanno andando in decine di migliaia, in centinaia di migliaia. Questo, lo ricordo, non è l'ottavo capitolo della saga di Star Wars, che invece arriverà alla fine del prossimo anno, ma è invece una, l'hanno chiamato un midquel, perché si colloca in mezzo a quella che è la saga in termini temporali, ma senza la necessità di aver fatto un episodio che riprende personaggi se non qualcuno e come dire, si collochi in maniera diretta nella ricostruzione dei fatti di Star Wars. Il film ha sicuramente tanti pregi, come per esempio una fotografia straordinaria, è girato in maniera egregia dal regista Gareth Edwards. Effettivamente può essere molto interessante per un universo di fans di Star Wars che sanno e hanno bisogno anche di punti di riferimento, che ci sono in questo film, da Darth Vader a Leia eccetera, ma non certo a un pubblico di ragazzini, di giovani, di giovanissimi, perché non troveranno quell'epica, a mio modo di vedere, dentro questa storia. Va detto che il film sta piacendo molto anche invece a tutto un blocco della critica, quindi è un film che ha diviso sicuramente sui pareri, ma la maggior parte dei pareri sono molto positivi, molto di più di quello che è stato invece il film di J.J. Abrams, il settimo capitolo, che era invece direttamente collegato alla saga. Insomma, non resta che andarlo a vedere, ma come dicevo prima, intanto lo stanno facendo in molti. E poi esce questo fine settimana un altro dei film di cui abbiamo sentito parlare in occasione di un festival. Spesso parliamo di film quando vengono presentati nei festival, poi aspettiamo che escano in sala. È quello che accade con un altro dei film che escono in questi giorni. Assolutamente, si tratta di Aquarius, il film di Kleber Mendonça Filho, con una grandissima Sonia Braga protagonista, reduce dal Festival di Cannes, dove ha destato una grandissima impressione perché riflette sul momento del Brasile, di un paese che ormai è alla post crescita economica, al post boom economico. L'abbiamo visto anche in questi anni fra mondiali di calcio, olimpiadi, un paese con tante contraddizioni, e lo fa attraverso una costruzione, un palazzo, appunto la residenza Aquarius, nella quale questa Clara, sessantenne, ex critico musicale di estrazione borghese, vive, che non vuole abbandonare anche dopo che un imprenditore ha acquistato tutti gli appartamenti del suo palazzo, una sorta di assedio che invece Clara tenta di tenere dalla sua parte. Sonia Braga è stata una reginetta delle telenovelas prima di diventare poi la grande protagonista di Donna Flor, per intenderci. Qui è davvero in grande spolvero, e il film, devo dire, è un film coraggioso per questo periodo. Bravi quelli di Teodora che l'hanno distribuito in questo periodo natalizio, può essere davvero un diversivo per chi anche a Natale vuole vedere un film che magari abbia qualche contenuto in più della semplice risata o della semplice avventura. Ecco, io spesso ti chiedo qual è l'uscita italiana della settimana. Questa settimana e nelle prossime sarà un po' più difficile, l'abbiamo detto, escono tanti film natalizi. Quale ci consigli in questi giorni? Allora, è una settimana molto molto densa. Arrivano questa settimana, da una parte Natale a Londra, dall'altra Poveri ma ricchi, e dall'altra ancora questo Fuga da Reuma Park, sul quale ci soffermiamo. Aldo, Giovanni e Giacomo, che simpaticamente scrivono il loro epitaffio, nel senso che raccontano di loro stessi, ormai invecchiati, sedia a rotelle, flebo di Barbera, in una casa di riposo per anziani abbandonati, che di fatto è un Luna Park, è il Luna Park dell'Idroscalo di Milano, e da lì riflettono sul loro passato, vedono i loro sketch. Il problema è che questo salto nel surreale, molto coraggioso devo dire da parte di Aldo, Giovanni e Giacomo, che cambiano tipo di comicità in una fase molto molto avanzata della loro carriera, si scontra un po' con la grandezza invece di quella comicità che hanno rappresentato, così virulenta, così forte, così fisica negli anni 90, e chiaramente la bilancia pende da quella parte. Però Fuga da Roma Park è quantomeno un tentativo di dare una via diversa di comicità in un Natale che vede appunto un'abbondanza di proposte e anche di cinepanettoni, e di contro un pubblico che deve dividerseli e chiaramente dovrà fare delle scelte. L'appuntamento con te dunque è dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ciao Marta, ci sarà anche Nino Frassica con noi, per cui vi aspetto. Ciao. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. Ed eccoci alla seconda ora del sabato del villaggio. Abbiamo già parlato di tanti argomenti, abbiamo parlato molto di cinema, di tanti film che sono usciti, abbiamo parlato di tecnologia con Pagliarini, abbiamo parlato con il nostro gastronauta dei dolci, ma scopriamo i temi della seconda ora. Ovviamente cominceremo a parlare di Sanremo, perché abbiamo scoperto all'inizio della settimana tutti i cantanti in gara, ma noi abbiamo l'esperto più esperto di tutti, quindi parleremo con lui. Ancora consigli per i regali, i libri con la nostra Alessandra Tedesco, poi Maria Luisa Pezzali ci consiglia le app fondamentali in questi giorni in cui ci sembra di non riuscire a fare tutto, ma prima la musica con i vincitori. Serious, it's ridiculous. Shining like she gold dust. Looking like she can be touched. Like a waddle, I take a dip in. No matter what you do, you will never be on the ticket. Maybe she's a model, a shadow look like a bottle. I'm about to follow, she calling me Chocolato Star. You can see her from afar, beauty lingers on the body like the string of a guitar. Hot sauce, sweat dripping when she walks. Hot shot, gunshot, bean on the guard. She's so fabulous, magic stick, so magical. Like a candy bar, she wanna get jiggy with it, yeah. It doesn't matter, she's gonna be with me, that is forever. Sono felicissima perché ormai è quasi un rito. Sabato pomeriggio, dopo la finale di X Factor, noi festeggiamo subito i vincitori. E questa volta i vincitori sono veramente deliziosi, i Soul System, in quanti hanno fatto il tifo per loro. Abbiamo già il telefono Alberto. Ciao Alberto. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Allora Alberto, com'è stata? Guarda, è stata un'emozione fantastica, anche perché considerando che noi non dovevamo neanche esserci lì, è stata veramente un'avventura fantastica che ci ha fatto crescere tantissimo. Devo dire che se c'è una cosa che insegna la vostra avventura è che anche quando sembra che niente sia più possibile, tutto è possibile. Effettivamente è proprio vero, perché proprio insomma non bisogna mai mollare, e noi alla fine non abbiamo mai mollato, e questo duro lavoro ha dato i risultati che noi speravamo, insomma. Alberto, adesso che cosa vedete, a parte il fatto che so che siete già stati completamente travolti da tutto, ma che cosa vi aspettate adesso che cambi nella vostra vita? Ma in realtà la cosa che interessa fare ai Soul System è musica, quindi diciamo che la cosa che ci piacerebbe di più è essere messe nelle condizioni di poter far musica e di vivere di quello, insomma. Nel vostro percorso X Factor siete stati però voi stessi, cioè siete riusciti secondo te a tirare fuori quello che sono veramente i Soul System? Sì, guarda, siamo proprio stati noi stessi, anche perché per dirti, anche il linguaggio della nostra musica, che è stato prevalentemente inglese, è quello che ci rispecchia di più. Durante gli home visit abbiamo cercato di giocare di strategia, ma ci hanno buttato fuori cantando in italiano. Quindi da quando abbiamo imparato quella lezione lì, abbiamo deciso di continuare cantando in inglese, e questo ci ha anche insegnato che che forse essere se stessi è la cosa migliore, infatti è quello che ci ha pagato. Ma abbiamo anche uno, allora Alberto ha detto uno dei piccoletti, Leslie, ciao Leslie. Sì, sono io, ciao a tutti. Leslie, che cosa hai provato in quel momento lì? Cioè, che cosa si prova nel momento in cui sei sul palco e dicono o voi o un'altra e poi dicono voi? Ma guarda, è stata veramente un'emozione fortissima, anche perché arrivati fino a quel punto eravamo tutti bravissimi, Rochelle, Gaed, Eva e noi veramente eravamo più felici più che mai, così lo sottolineo di più, anche per il fatto che comunque arrivati sul forum di Assago veramente un traguardo che pochi riescono ad arrivare, noi grazie a X Factor ce l'abbiamo fatta e quindi veramente per noi era un'emozione fortissima, un'emozione impagabile veramente. Com'è stato arrivare fin lì dopo tanti tentativi? C'è qualche altro talent che ha detto che eravate, che almeno tu eri passato anche di lì, com'è stato arrivare lì dopo tutti questi tentativi? È stata una lotta veramente dura, perché la gente alla fine vede solo il risultato finale che c'è sul palco, che c'è in televisione, ma la gente a volte non sa che c'è veramente un lavoro molto, molto grande, molto, molto impegnativo anche dietro le quinte, con sale prove, la decisione dei pezzi, arrangiarli, capire come possono funzionare, provare sul palco, i sound check. Sì, è stato veramente duro, però ne valsa la pena. Ma adesso riuscirete a tornare a casa per qualche giorno, visto che siete stati rapiti settimane fa? Guarda, siamo già in partenza perché non vediamo l'ora di tornare dai nostri genitori, dalle nostre famiglie, e abbiamo fatto un po' di impegni anche oggi, sia ieri, e non vediamo, oggi torniamo a casa e ci godiamo almeno questa giornata per poi ricominciare domani e dopodomani altri impegni lavorativi. Beh ragazzi, davvero sarà un'avventura lunghissima, perché questo è solo l'inizio. In bocca al lupo davvero tanto, grazie Leslie, un abbraccio a tutti, abbraccio a tutti per me. Lo farò, grazie mille. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non vuoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Tu non sei più la stessa, ma non sono più gli stessi nemmeno i Decibel. Allora, lo sappiamo benissimo, i Decibel erano un gruppo di grandissimo successo, fondato e capitanato dal nostro Enrico Ruggeri. Un gruppo punk antelitteram, come canta Enrico Ruggeri, punk prima di te. Si erano sciolti tanti tanti anni fa. Questa settimana Enrico Ruggeri ha convocato un po' di amici giornalisti in un indirizzo di Milano, senza dare dettagli, ed era Via della Commenda. Io sapevo più o meno che c'era qualcosa lì e mi sono trovata al liceo Berchet, perché i Decibel si erano formati al liceo Berchet e proprio lì, nell'aula magna del liceo, si sono ritrovati e hanno annunciato a tutti la loro reunion. Si riformano per un disco, per tante cose che succederanno, e ce le ha raccontate proprio Enrico Ruggeri. Succederà che finiamo di fare il disco, che esce il 10 marzo in due versioni. Una è il CD normale, diciamo, come tutti, ma soprattutto c'è una tiratura limitata a 1000 copie, nella quale pubblichiamo il CD in doppio vinile. Poi ci sono tutti i vinili dei Decibel, perché dopo tutti questi anni i vari contenziosi si sono risolti e quindi possiamo ripubblicare in vinile tutto. Poi pubblichiamo il primo manifesto del primo concerto dei Decibel, insomma alcune rarità, un book fotografico. Album quindi inediti? Album inediti, abbiamo rinciso con Tessa tre canzoni, una che si chiama Per No e Vivo da Re, soprattutto pensando alla versione inglese, perché Vivo da Re nacque quando avevamo 17 anni, si chiamava Living Home ed era una canzone di ragazzini del liceo, quindi peraltro con un testo in inglese anche forse non perfetto dal punto di vista sintattico. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. E l'intervista integrale a Enrico Ruggeri e ai Decibel, perché c'erano tutti, domani mattina dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri, adesso il traffico, poi saremo ancora insieme al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. A merry little Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. From now on, troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Regali, regali di Natale. Qual è il regalo di Natale più bello? Vi facciamo una testa così da settimane, perché noi adoriamo regalare libri e in questo spazio parliamo sempre di libri, di regali, di consigli proprio mirati. E lo facciamo ovviamente come sempre con Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Marta, il libro è un regalo meraviglioso, lo dico sempre. Dico, si spendono 10, 15, no, forse anche 20 euro a volte, però insomma nelle versioni economiche i libri si trovano anche sui 10 euro ed è qualcosa che ti fa compagnia per tanti giorni innanzitutto, ma soprattutto è un regalo intimo e personale, perché dice tanto di chi lo fa e di chi lo riceve. Io, se devo regalare un libro, non è che lo regalo così a caso, penso proprio a quella persona e regalo quel libro. Diamo dei consigli mirati allora per chi ci sta ascoltando, categoria per categoria, facciamo per così. Categoria. Tu, mare o montagna? Dimmi montagna, perché sono pronta sulla montagna e non sul mare. No, guarda, in questa stagione proprio non ho dubbi, montagna. Dai. Oh, allora, per gli uomini e le donne appassionati di montagna, ma anche di letteratura, perché è veramente un libro bello, si intitola Le otto montagne, l'ha scritto Paolo Cognetti, pubblicato da Einaudi. Cognetti aveva scritto, non so, una raccolta di racconti, Sofia si veste sempre di nero per la Minimum Fax. Mi ricordo qualcosa di bello sulle ragazze. Sì, anche quello era stato il suo primo manuale per, tanto non, bello. Per la manutenzione. Sì, adesso sì, non mi ricordo sì, bene era il tanto titolo. Bello. Però questo libro è veramente bello, sarà uno dei libri che segnerà questa stagione di passaggio 2016-2017. È un libro poetico e bello, parla di paternità e di amicizia maschile. È la storia di un ragazzino, Pietro, dei rapporti insomma con i suoi genitori, soprattutto con suo padre, ed è anche la storia di un'amicizia con questo amichetto Bruno. Allora, i genitori vivono in città, però amano moltissimo la montagna, quindi fanno trascorrere a Pietro molto tempo in un piccolo paese del Monte Rosa. All'inizio, diciamo, c'è il rapporto col padre un po' ruvido. Per esempio, nelle prime scene c'è il padre che lo spinge a salire in montagna, invece Pietro, insomma, soffre di mal di montagna, quindi in alta quota non sta benissimo, ma il padre, insomma, è indifferente a questa sua sofferenza e lo fa andare avanti. Poi, in realtà, dopo appunto la morte del padre, Pietro recupera, diciamo, a posteriori il rapporto con il padre, proprio ripercorrendo quei sentieri fatti insieme. Un libro bello, sicuramente c'è tanta montagna, perché c'è tanta descrizione della montagna, della salita, della fatica che si fa, ma è soprattutto un romanzo su appunto il rapporto padre-figlio e sull'amicizia maschile, Le otto montagne di Paolo Cognetti. Bello, intenso. Mi è venuto in mente il titolo di Paolo Cognetti, era Manuale per ragazze di successo. Ah, per ragazze, no, per la manutenzione, quella era lo zaino nell'arte della manutenzione della motocicletta. Allora, a questo punto, ragazze, qualcosa per ragazze c'è? Allora, assolutamente sì. Se volete fare un regalo ad amiche, magari soprattutto single e soprattutto ironiche, Volevo solo andare a letto presto, dichiara Moscardelli. Bella, già il titolo mi piace. Da Giunti, guarda la copertina che è bella. Mi piace, andatela, mi piace, vedere, mostriamola alla radio. Andatela a vedere su internet. Chiara Moscardelli è la scrittrice, ha esordito con Volevo essere una gatta morta, La vita non è un film, Quando meno te l'aspetti. Insomma, è una scrittrice veramente ironica, fa sorridere ma veramente con intelligenza. E poi c'è sempre un pizzico di mistero, c'è una sorta di sottotrama gialla nei suoi romanzi. Allora, la protagonista di Volevo solo andare a letto presto si chiama Agata Trambusti, quindi un nome e una garanzia. Ha 35 anni, lavora a Roma in una casa d'asta, è insicura, ipocondriaca. Mm-hmm. Pensa che quando bacia l'uomo di cui pensa, insomma, di essere innamorata, pensa che virus avrebbe potuto contrarre, potrebbe trasmettere in quel di bacio. Di soddisfazione proprio. Sì, sì, infatti, maniaca del controllo, super ordinata ed è anche stranamente fan delle telenovelas brasiliane. Tu, Marta, che ami la televisione, te le ricordi le telenovelas? Accidenti. Tra l'altro con Franco D'Assisi abbiamo parlato proprio di un film con Sonia Braga. Ah, quindi, giusto, è vero, perfetto. Il film di Sonia Braga, come no? Insomma, questa Agata Trambusti è sempre un po' dissociata, mettiamola così, ogni tanto dalla realtà, ha paura dell'amore, in realtà ha paura di diventare vulnerabile con l'amore. Un giorno, mentre fa un sopralluogo per lavoro in una villa, incontra quest'uomo Fabrizio, che è un uomo misterioso, che addirittura la insegue fino a Barcellona, dove lei è andata a fare delle ricerche. Perché la insegue? Perché è uno stalker? No. La ragione è un'altra, ma la scoprirete solo leggendo Volevo solo andare a letto presto. Sì, la soddisfazione di scoprirla pagina dopo pagina. Vedo che hai davanti a te i libri alla radio. Un bel mucchietto di Sellerio. Sì, un bel mucchietto di Sellerio, perché Sellerio ha questa tradizione che ogni anno a Natale pubblica un'antologia, diciamo, di racconti, spesso tinti di giallo, di noir, con alcuni dei loro autori più noti. La raccolta di quest'anno si intitola Storie di Natale. C'è un racconto di Camilleri, uno della Alicia Jiménez Bartlett, la scrittrice spagnola, poi c'è Antonio Manzini, insomma, e tanti altri. Ma io ho recuperato anche quelli degli anni scorsi, perché non è che i libri scadono, sono sempre belli. E allora quest'anno è uscito Storie di Natale, ma abbiamo anche a disposizione Capodanno in giallo, Regalo di Natale, Un Natale in giallo. Secondo me un ottimo regalo quando non si conosce bene magari la persona a cui si vuole regalare, perché i racconti hanno tutti magari uno stile un po' diverso, quindi uno lo devono azzeccare. Certo, e poi secondo me sono tutti autori di grande classe, e quindi non so, vicino l'albero, vicino al caminetto, in vacanza, a Capodanno, a Natale, leggersi per due serate un libro così è molto molto bello. Allora, a me che piacciono i libri con la copertina un po' pop, vedo davanti a te un libro che sicuro mi piace. Guarda, di qualsiasi cosa parli, un libro così colorato e così pop mi piace sicuro. Che cos'è? Fucsia e giallo. Esatto, un po' manga come stile. È molto manga, perché parla di Giappone, di cucina giapponese nello specifico. Io l'ho messo nella categoria per quelli che adorano il sushi, mettiamola così, ma non solo. Il libro si intitola The Sushi Game, Guida Banzai alla cucina giapponese, scritto da Francesca Scotti e illustrato da Alessandro Mininno, pubblicato da Terre di Mezzo. Allora, la copertina appunto è molto pop, come dicevi tu, ma il libro è molto serio, perché Francesca Scotti è una scrittrice, tra l'altro, di romanzi, che vive fra l'Italia e il Giappone. Il libro è una specie di gioco fra le stranezze del cibo giapponese, appunto, che non è solo sushi. Allora, diciamo che per ogni pietanza si fa un breve cenno storico, poi viene segnato l'elemento di difficoltà, ossia la difficoltà che noi occidentali possiamo incontrare nell'approcciare determinato cibo. Ti faccio un esempio, pagina 86 l'ho segnato, il natto, che è un cibo giapponese che in Italia raramente si trova, è una cosa puzzolentissima, io l'ho sentita, veramente stavo per svenire. Ma i giapponesi, insomma, se la mangiano tutti i giorni. Ne ho parlato anche con una scrittrice giapponese. Allora, a proposito di elementi di difficoltà, Francesca Scotti scrive: puzza, ma proprio tanto. Se volete avere una vaga idea del tipo di puzza, prendete una crosta di gorgonzola, un po' attempato, e fatela scaldare nel microonde. Ecco, puzza che fa fili. Va bene, questo è il natto. Quindi con The Sushi Game vedi fino a dove sei in grado di arrivare, proprio come un gioco, i vari livelli, e poi arrivi alla fine a dover mangiare addirittura, se vuoi essere un vero giapponese, dei pesciolini vivi. Ecco, il pesciolino vivo. Sì, il pesciolino vivo è così. E poi è carino, per esempio, che c'è un box che dove c'è scritto avvistamenti. Allora ti dice, per esempio, in quale film o in quale libro o in quale manga è presente quel determinato cibo. Ed è bello fare una specie di caccia al tesoro. Ah, è vero, in quel film si vede quella cosa lì. Cos'era? Il natto, quella roba puzzolente. È tutta colpa di Francesca Scotti e The Sushi Game. Io devo dire che nei miei viaggi ho sempre mangiato tutto, fermandomi davanti agli insetti e alle cose vive. I pesciolini vivi. Non ce la posso diciamo fare. Che fa parte dell'esperienza del viaggio, del bagaglio culturale, ma anche quella cosa super puzzolente forse. Vabbè, però insomma non tutti gli appassionati di cibi stranieri, insomma i curiosi del cibo, quelli che dicono vado a mangiare il sushi, sì, ma la cucina giapponese è anche altro, alla prova. È vero. Allora, bambini, non abbiamo ancora parlato di bambini. Bambini, Natale fondamentale. Ora, visto che quest'anno si è parlato tantissimo di Shakespeare per il suo anniversario, allora ho scelto Shakespeare raccontato ai bambini, scritto da Charles e Mary Lamb, spero di pronunciarlo bene, Marta, che sono davanti a un'anglofona, pubblicato da Mondadori. Allora, c'è Romeo e Giulietta, ma ci sono altre storie, per esempio c'è Amleto, Otello, poi alla fine ci sono degli approfondimenti, delle curiosità su Shakespeare. È molto carino e interessante, secondo me, per i bambini dagli 8 anni in su, Shakespeare raccontato ai bambini. Molto molto carino. Lo facciamo il consiglio low cost anche questa settimana? Assolutamente sì, per chi non vuole o non può, insomma, anche per fare un pensierino con un libro che costa meno di 10 euro, sempre quello è il nostro, come dire, punto di riferimento. Un libro vecchissimo che a me piace tanto e lo consiglio sempre, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis. E lo trovate in edizione economica ad Elfi. È un libro dove si ride. Hai presente quando quello lì, la pubblicità di Cruciani al casello di Carisio, voglio ridere. Ecco, comprate Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, altro che Cruciani e il casello di Carisio. Molto molto bello, e ne abbiamo bisogno in questo periodo. Abbiamo bisogno di sognare, abbiamo bisogno di coccolarci, ma anche di ridere. Assolutamente, di Alessandra, sorridere. Allora, gli ultimi consigli li diamo la prossima settimana, però saranno proprio quelli last minute. Last minute low cost, siamo veramente... Cool. Siamo esatto, ovviamente. Alessandra, l'appuntamento invece con te è con Il cacciatore di libri. Lo trovate sempre in podcast, così ve lo ascoltate quando volete voi. Se poi invece ve lo volete ascoltare alla radio, che fa più fico, il sabato alle 6:30 del mattino oppure alle 22, stasera c'è niente poco di meno che il nuovo noir di Gianrico Carofiglio. Fantastico, io vi do un consiglio, però scaricatevi tutti i podcast del cacciatore dei libri, perché così durante le vacanze, se non l'aveste mai sentito, è perfetto per tenervi compagnia nei viaggi, negli spostamenti. Bella, perfetto questa. Il cacciatore dei libri, caffè pagato. Alessandra, al prossimo sabato, ciao. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Rimaniamo ovviamente in tema di Natale, di spese natalizie, perché ci siamo quasi. Io devo dire la verità, sono un po' in ansia perché da domani devo fare un tour de force. Non ho tempo, non ho fatto niente. Tutti gli anni dico no, vabbè, comincio presto. Anzi, ho cominciato a fare le puntate del sabato del villaggio sui regali un mese fa, perché diciamo, così facciamo la lista, comincio a prepararmi. Niente, delirio. Chissà se Maria Luisa Pezzali può darmi una mano. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, saluto a tutti. No, noi predichiamo bene, razzoliamo malissimo. Io sono messa in un modo che ho l'ansia. Ecco, mi fa piacere, vabbè, ma il comune è mezzo gaudio. Ok, domani tutto insieme, c'è qualcosa che possiamo fare? Allora, oggi iniziamo parlando di faccende, di commissioni, di cose da fare nella to-do list di questi giorni, la mia grida vendetta. No, guarda, non specifichiamo, facciamo finta di niente. Io farò Natale con le luci basse, così non si benissimo, vede. Benissimo, stendiamo un velo pietoso. Allora, sì, ne parliamo perché le faccende. Allora, qualcuno magari le va a fare per noi, così noi abbiamo tempo per fare i regali. Oppure qualcuno va a fare proprio a comprare i regali al nostro posto. Tu dici impossibile. No, anche perché il maggiordomo non ce l'ho. Ma oggigiorno la sharing economy, con tutte le app dell'economia digitale on demand, è riuscita a soddisfare anche questa nostra esigenza. Beh, raccontami un po', che allora, mi interessa. Cioè, le faccende, proprio le commissioni, sono il nuovo tesoro della sharing economy. Quindi fare la spesa, ritirare i vestiti in lavanderia, montare un mobile, oppure farsi trovare a casa perché qualcuno, qualche tecnico viene a montare i mobili, quindi noi dobbiamo magari sorvegliare, capire se hanno fatto tutto quello che volevamo, insomma tutte quelle cose per cui noi non abbiamo mai assolutamente tempo. Taskhunters.it è la prima che voglio segnalare, è una piattaforma che mette in contatto chi ha tempo libero da impiegare, in particolar modo gli studenti che hanno tempo libero e sono sempre a caccia di denaro, insomma, per riuscire a sopperire alle spese del periodo universitario. Mette in contatto appunto gli studenti con chi ha bisogno invece che qualcuno si occupi delle proprie faccende, perché è sempre in deficit di tempo. Attiva per ora solo a Milano, nei prossimi mesi anche a Roma, Torino, Bologna e Padova. Bene, perché così allarghiamo. Quindi questa ci fa risparmiare tempo, perché altri ci fanno le faccende e noi liberiamo un po' l'agenda, quindi perfetto. Già questo è positivo. Però c'è anche un'app che fa qualcosa di più, Marta, che va a comprare i regali di Natale al nostro posto, si chiama Glovo. Cioè si fa le file nel traffico. Brava, esatto. Glovoapp.com è partita con il food delivery, quindi con la consegna di cibo a domicilio, però in questo momento punta proprio alle consegne locali in generale, permettendo quindi agli utenti di acquistare e ricevere nel più breve tempo possibile, si parla addirittura di mezz'ora, 40 minuti, qualsiasi prodotto che si può comprare in città, quindi non solo il cibo, anche medicinali, andare in farmacia, i prodotti di cosmetica, quindi la profumeria, certo, piuttosto che fiori, gadget elettronici, abbigliamento, libri, quindi in questo contesto rientra assolutamente tutto il nostro ventaglio di possibili regali natalizi. Nata a Barcellona, attualmente presente in Spagna, Francia e Italia, in questo momento in Italia solo a Milano, ma presto, e si parla di pochi mesi, anche Roma. Matteo Picchi è il country manager Italia, sentiamo cosa ci ha raccontato. È un servizio che cerca di rendere la città più accessibile a tutti attraverso un'app, anche un sito web, ma fondamentalmente attraverso il telefonino. Ci permette di richiedere qualunque cosa sia presente in città, perché ci sarà sempre uno dei nostri Glover che sarà pronto a farti quella commissione in circa mezz'ora, 40 minuti, insomma nel più breve tempo possibile. Quindi diciamo che il nostro obiettivo, la nostra missione è quella di rendere la città più accessibile. Veramente qualunque cosa che si potrebbe fare in città si può richiedere, perché c'è una persona disposta a farla. Quali sono le commissioni più richieste? Bisogna essere sinceri, il cibo è la parte più importante di ogni business on demand quando si tratta di consegne. Una persona mangia 3 volte al giorno, quindi ovviamente è più facile incontrare la necessità delle persone in questo modo. Quindi direi che il prodotto è il cibo. Se invece mi chiede la commissione, probabilmente direi le chiavi, cioè quando qualcuno ha lasciato le chiavi da qualche parte e vorrebbe portarle da un'altra parte. O ad esempio anche il computer, no? Penso che a Milano sia abbastanza normale uscire dall'ufficio con il computer in mano, non volerlo per fare l'aperitivo. Molto spesso la gente ci chiede: mi puoi portare il computer a casa? Quindi noi arriviamo probabilmente l'ultimo minuto della giornata lavorativa del cliente e portiamo il computer a casa. Voi vi inserite negli interstizi, diciamo così, dalla quotidianità di ciascuno di noi per ottimizzare tempi e spostamenti, insomma, esatto. Mi sembra di aver capito. Il prezzo chi lo fissa? Allora, il prezzo dipende da tantissime variabili, anche perché diciamo che il nostro prezzo, poi come tutti i servizi on demand, deve rispettare quelli che sono i costi delle persone che poi fanno il servizio. Dunque ci sono tantissime cose che intervengono. Noi ad oggi a Milano siamo partiti con un prezzo fisso di 5,90 euro IVA inclusa su ogni commissione, mentre quando noi abbiamo un accordo con quel tale negozio, quel tale ristorante, quella tale insegna, a quel punto la commissione diventa bassissima, delle volte è gratis, delle volte è massimo 1,9 e anche il partner ci riconosce qualcosa per cercare di coprire i costi che sono quelli dei nostri Glover. Devo dire che ho sorriso sul computer in ufficio perché è molto da milanese, sì. Dire, voglio lasciare il computer in ufficio. Secondo me gli ascoltatori hanno sorriso con noi perché hanno detto questo è proprio da milanese. Beh, mi è piaciuta molto però perché effettivamente ci sono magari degli acquisti o delle cose che devi fare in un luogo lontano e perderesti veramente moltissimo tempo e può aiutare, promossa. Beh, mi proprio piace. Simile maggiordomo direi. Sì, è vero, perché se io sono in una zona di Milano e sto lavorando, ecco, no, promossa, mi piace molto come idea. Cerchiamo la nostra Cristina Razzati, se ha qualche chicca per noi anche questo sabato. Ciao Cristina. Ciao, ce l'abbiamo. Cristina, allora, la tua chicca per questo sabato del villaggio? Allora, siamo sempre sui regali, a questo punto mi aiutano quelli di regali.it, che sappiate che alcuni di voi hanno già pronto un regalo sotto l'albero, non da regali.it ma da qualcuno che li ha comprati lì, e devo dire che mi ha veramente stupito. Allora, spero di, adesso senza togliere nulla, non sono così romantica, comunque al primo posto nei vari paesi, non solo in Italia, in Europa, c'è l'amore, regali romantici o meglio ancora passionali. E se vogliamo dividere un po' e chiederci gli italiani sono più romantici o passionali, beh, quest'anno sono molto passionali. Infatti il regalo più preso su regali.it si chiama cuore erotico, e non cominciamo a pensare delle cose particolarmente strane. Si tratta, accidenti, in realtà, che cos'è? Il cuore erotico, che poi è un bel abbinamento, ci piace. Sono 100 sfide di pura passione di coppia. Quindi si tratta di un cuore dove ci sono dei bigliettini dove che tu peschi, e nella foto peschi con delle bacchette giapponesi, perché così famo lo strano fino in fondo, le peschi, apri e devi fare quella cosa lì. È un gioco di coppia che in qualche maniera dovrebbe ravvivare, riattivare se non ci scappa da ridere, però, perché il rischio è che ci scappi un po' da ridere, ma va bene anche quello. Ma anche tipo Twister, quello dei bolloni, perché sai, famolo strano, anche a questo quello punto, potrebbe allora, essere esatto, una variante. Sì. Allora, quello è il gioco dei bambini, Twister, per cui cerchiamo di non mescolare poi sotto è l'albero vero, questi regali, è perché vero, poi i bambini da una certa età in poi sanno anche leggere. Esatto. Poi al secondo posto invece c'è la tazza magica personalizzabile con foto. Allora, io su questa mi sono fatta effettivamente un po' una risata. Adesso non mi regalate, sappiate, chi mi ascolta e mi conosce, non regalatemi la tazza con la mia foto, ma neanche quella con la foto dei bambini, perché la cosa è che tu versi dell'acqua, il tè bollente, il caffè bollente, e la tazza che è monocolore appare la foto che avete messo sopra, per cui in realtà una tazza rossa appare la foto. Allora, se poi uno si sbaglia e mette la tazza, che ne so, del collega che gli fa antipatico, della suocera che non sopporta, beh, quello potrebbe essere magari un regalo divertente. Però in linea di massima, ecco, al secondo posto c'è la tazza. Al terzo posto, che è quello che però sta al primo posto in Spagna, c'è l'orsetto di peluche personalizzato con foto. E questo, anche questo, è molto romantico, perché gli spagnoli sono molto romantici, però anche agli italiani piace. Infine vi cito un altro che piace un po' dappertutto, è il libretto degli assegni per coppie in crisi. In che senso? La banca allora, qual è? Allora, la banca, no, non ci sono soldi da tirare fuori, tranne quelli per il regalo. Ad ogni assegno corrisponde un'azione, un gesto d'amore verso il partner. Qui ci spostiamo dalla cosa un pochino che immagino sia quella del cuore erotico, ci si sposta invece a una cosa magari che sai che l'altro magari gradirebbe, ma se magari non va, ti annoia un po', eccetera. Infatti loro citano ad esempio la promessa di andiamo a trovare i tuoi. Sì, va bene, dai. Sì, queste cose che è molto carino, e secondo me in fondo può essere anche un gioco intelligente da portare avanti nel tempo. Io direi che si parte con gli assegni e poi si passa al cuore erotico, si può far così. Ecco, sì, mi sembra un'ottima idea, così si può fare l'abbinata. Magari lui regala a lei il cuore erotico, viceversa, e lei regala a lui, quindi insomma ci ho fatto questo regalo molto carino. C'è anche il cuscino personalizzato, così se per caso tutto va bene puoi mettere pure la tua foto sul cuscino di tuo marito, così quando si sveglia può, ha ben presente dove stai, con chi è. E dopodiché infine, invece, per chi invece non è passionale o comunque non sta in coppia, non gli frega niente, c'è il set regalo di birre dal mondo, che lo trovo anche questo molto carino. Sono 9 birre con 3 diversi continenti per fare il giro del mondo in un boccale. In fondo può essere, visto che va tanto adesso, c'è molto il trend delle birre gastronomiche, artigianali e quant'altro, può essere anche un buon modo per uscire dall'Italia e conoscere anche dei gusti, sempre ovviamente se ci piace la birra. Grazie a Cristina Lazzati. Beh, insomma, abbiamo ancora qualche giorno, sfruttiamolo bene. Grazie Cristina, a presto. A buon pomeriggio a tutti. Ciao Cri, io da piccola Marta regalavo a mio fratello gli assegni in bianco, in questo caso erano dei bigliettini con 3 favori. Bello, favori, bello. E lui doveva richiederli. Mi piace, potresti farlo anche quest'anno, chissà se li accetta ancora. Sì, magari sì, visto che a lui non so proprio cosa fare quest'anno, quindi... Io starei attenta, perché chissà cosa ti può chiedere. Vabbè. Esatto. Maria Luisa, l'ultimo consiglio essere avere. Domani alle 22 come sempre. Ciao Marta. Ciao. I vostri messaggi al 349-238-6666, che vi ricordo va bene sia per gli sms che per i whatsapp, ma c'è anche il mio account di twitter che è @MartaCagnola, l'hashtag che è cancellettoisdv, ma anche cancelletto radiotube, perché tra poco più di un'ora ci cambiamo d'abito e così trasformiamo come ogni sabato la nostra trasmissione dal sabato del villaggio a radiotube, ma siamo sempre noi, arriva semplicemente Daniele Bellasio. Allora, un messaggio molto carino, quello di Matteo: esco di casa per commissioni ora, un po' di foschia, un sacco di antinebbi accesi, lo diciamo Enrico Pagliarini, faccio gli abbaglianti ma nessuno se ne interessa, forse stanno tutti scrivendo su WhatsApp, spero non mentre guidano, spero solo non mentre guidano. Allora, a proposito, il traffico, andiamo a sentire come sta andando la situazione su strade e autostrade, perché poi ci trasferiamo in Riviera, andiamo in Liguria, sono sicura che sapete già perché. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta il sabato del villaggio. No, ma quanto sono rimbambita! Adesso in interfono Cristian Goldoni mi prendeva in giro, dall'altra parte del vetro mi diceva: guarda che ha chiamato Franco D'Assisi arrabbiato perché hai detto che tra meno di un'ora c'è RadioTube. Ma sono troppo rimbambita! Cioè, RadioTube è tra poco, perché tra meno di un'ora c'è La Rosa Purpure e io sarò già in macchina che torno a casa e ascolto Franco. Scusa Franco, non ce la posso più fare, ho proprio bisogno di vacanze. Ma ancora niente vacanze, perché noi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio anche sabato prossimo, quindi immaginatevi cosa non posso tirare fuori il prossimo sabato. Vabbè, non importa, apriamo una nuova pagina. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai, tu riderai di me. Ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai, tu riderai di me e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. Dirai che un uomo deve deve sapere difendersi. Nai, nai, nai. Sembra già passato un sacco di tempo, invece è passato meno di un anno, perché all'inizio del 2016 gli Stadio vinsero Sanremo con questa canzone. Ma siamo già pronti per il prossimo Sanremo, perché lunedì scorso in prima serata su Rai 1, la prima volta che è successo l'annuncio dei big in diretta in una prima serata, c'era la finale del concorso per accedere alle nuove proposte. Abbiamo le nuove proposte, ma abbiamo anche tutto l'elenco dei big, ma noi possiamo commentarlo così normalmente come fanno tutti gli altri? No, perché noi abbiamo il nostro super esperto che ci ha tirato fuori tutte le statistiche più divertenti. Devo dire la verità, lui riusciva a fare lunedì sera via Twitter le statistiche in tempo reale, quindi lui ha un talento che è assolutamente imperscrutabile e incomprensibile, ma di fatto ha tutte le curiosità di questo cast e noi le possiamo chiedere solo al nostro Eddie Anselmi. Ciao Eddie! Ciao Marta, ciao ad ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24, buon pomeriggio. Allora Eddie, tu mentre Carlo Conti dava i nomi, tu davi i numeri già subito. Allora, sì. Allora partiamo dal primo numero, sì. 1951, cioè le canzoni che hanno partecipato in gare, in qualsiasi categoria e sezione, nella storia del Festival di Sanremo diventeranno 1951. Cioè come l'anno quest'anno in cui è nato Sanremo? Finalmente è facile da ricordare, perché gli altri anni era sempre un numero, 1943, 1821, no, quest'anno sì, 1951 canzoni, quando sarà stata eseguita però la trentesima, quindi solo all'inizio della serata del giovedì, quando canteranno gli ultimi quattro giovani. Quindi 1951 canzoni in gara, non gli ospiti. Ok, e questa già è ottima. Quindi se Carlo Conti non avesse aumentato da 20 a 22 sarebbero state 1949 e non ci funzionava il gioco. Ah, l'ha fatto apposta allora, forse. Allora, ancora curiosità. Un record battuto, perlomeno è eguagliato, sarà 15esimo festival in concorso per Albano, sarà il record. Albano raggiungerà sulla vetta del festival Milva, Peppino Di Capri e Toto Cutugno. A dire la verità, Milva e Peppino Di Capri hanno sempre partecipato solo come solisti. No, Milva ha partecipato solo come solista. Peppino Di Capri ha partecipato una volta con un trio che si chiamava il Trio Melody, una volta in duetto. Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Nel 95 e poi invece Albano ha molte volte, insomma, ha inanellato partecipazioni di storie e podi in coppia con la moglie Romina Power. Secondo me, se ti ha sentito, Toto Cutugno comincia a fremere, perché dice: non è possibile, adesso voglio battere ancora Toto Cutugno record. I primi due Sanremo li fece come solista degli Albatros, però ormai gli si riconosce pacificamente che i primi due Sanremo furono quelli del 76 e 77. Fantastico, capite lo storico vero. Ancora statistiche e curiosità, Eddie? Allora, dietro ad Albano c'è Michele Zarrillo, che ha la sua 12esima partecipazione in concorso, ha debuttato nel 1981, decima partecipazione, poi è tornata altre volte come ospite, però in gara 10 volte per Paola Turci, che ha anche 3 premi della critica. Ha 3 premi della critica come Mia Martini e come Patti Pravo, in categorie minori senz'altro, però sono premi a della critica a tutti gli effetti, anche se poi dopo ottavo Marco Masini, ottava volta al festival, settima volta al festival in concorso per Ron, è stato altre 6 volte come autore per altri, sesta volta per Gigi D'Alessio, che ha scritto 5 canzoni per altri cantanti, di cui 3 volte Anna Tatangelo, una volta Gigi Finizio e l'altra canzone di Gigi D'Alessio fu per Salda Vinci, e Fiorella Mannoia, insomma il nome ingombrante, come direbbe un politico, l'elefante in corridoio, insomma un po' il Pooh, sembra il Pooh nel 90 o Costante nel 91. Eh sì, perché almeno già tutti dicono vince la Mannoia, lo dicono tutti adesso, E vedremo, insomma, non abbiamo ancora sentito le canzoni e già tutti dicono vince la Mannoia, è così. Comunque è al quinto festival e come Zarrillo ha debuttato nel 1981. Il debutto più vecchio è quello di Albano, che ha fatto il primo Sanremo nel 1968, però Ron ha debuttato poi 2 anni più tardi, giovanissimo, era ancora minorenne, nel 1970. Quest'anno ci sono un sacco di debutti. Di debutti, e ci sono un sacco di persone che anche i sanremesi più appassionati hanno dovuto googlarne almeno uno. Io sono stato il primo, l'ho anche detto, io Raige, sì, l'avevo sentito, aveva fatto il pezzo dell'Annalisa, però sfuggiva quella sera al mio personale ti radar. Ti bacchetto poi... perché è stato ospite a Radio 24. Adesso lo so, mi hai bacchettato anche su Twitter. Ecco, e ti dico che devi ascoltare l'intervista, perché lui è venuto a trovarci in studio, a presentarsi, ed è simpaticissimo, bravo, Raige, bravissimo. E poi c'è un debutto come solista che però aveva già partecipato al festival 16 anni fa, 17 ormai, quello di Samuel Romano, che abbiamo visto a Sanremo come cantante dei Sonica. Poi c'è Giorgia Luzzi, che è più nota forse come attrice per come cantante, nomi che arrivano da circuiti diversi da quello del festival, come Lodovica Comello, presentatrice televisiva per il pubblico italiano, ma anche vedette internazionale lanciata da Violetta, dalla produzione di Disney, Violetta, e in classifica in quattro paesi del mondo, dalla Polonia all'Argentina alla Spagna, quindi come profilo internazionale c'è, anche se qualcuno ha detto Lodovica Comello e chi sarà mai. Beh, i giovani invece la conoscono bene, infatti il nostro amico Paolo il nostro amico Paolo Giordano ha scritto: solo i fan di Lodovica potrebbero tenere il suo nome in trend topic di Twitter per tutta la settimana di Sanremo, perché lei è veramente hanno già cominciato. Sì. E poi i debutti, insomma, dei reduci dai talent show più recenti, come Alice Pava, vincitrice, ultima vincitrice di The Voice, non ultima nel senso vincitrice dell'ultima edizione. Ma perché non ce ne saranno più? Esatto, non ci saranno più. E Elodie e Sergione Silvestre, che invece vengono dall'ultima edizione di Amici, e Michele Bravi, che sembrava essersi perso dopo aver vinto X Factor nel 2013, e poi invece, quando tutti pensavamo che si fosse dato un altro mestiere, ce lo troviamo ancora sul palco di Sanremo, lo ricordiamo, e vediamo se riuscirà a ripetere le esploit di Francesca Michelin, che l'anno scorso, dopo qualche anno di fermo motori, è tornata alla grande. Grazie a Di Anselmi, quindi ci risentiamo più sotto Sanremo, a presto! Ciao! Grazie a tutti, noi ci ritroviamo tra poco, non tra un'ora, perché è il momento di RadioTube, tra poco.